Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi. In apertura agli ultimi aggiornamenti sulle inchieste, sugli attacchi di Bruxelles, il cuore dell'Europa politica ed economica. Gli jihadisti dell'ISIS stavano preparando un attacco multiplo a Bruxelles, in stile Parigi, in cui Salah avrebbe dovuto sparare in città. C'è un nuovo ricercato per gli attacchi e sarebbe un siriano, e si sa che i fratelli kamikaze avevano lavorato come addetti alle pulizie nell'area aeroporto di Bruxelles. Si viene a sapere anche che un poliziotto aveva l'indirizzo di Salah da almeno 3 mesi. Intanto, nell'interrogatorio dello scorso 19 marzo a Bruxelles, i cui verbali sono stati rivelati oggi dal quotidiano francese Le Monde, Salah avrebbe affermato che il responsabile degli attentati del 13 novembre a Parigi sarebbe Abaoud, morto nell'assalto al covo di Saint-Denis. Gli Stati Uniti sono determinati ad appoggiare il Belgio e tutti gli altri paesi europei per affrontare la sfida del terrorismo. Continueremo a fornire assistenza necessaria alle indagini. Così il segretario di Stato americano John Kerry questa mattina in conferenza stampa con il premier belga Michel. Non ci faremo intimidire, ha detto Kerry, e non ci fermeremo fino a quando non avremo eliminato l'ideologia dell'ISIS da questo mondo. Intanto, su scala europea viene rivitalizzata la squadra comune di collegamento di esperti nazionali antiterrorismo, con sede all'AIA. Invertire la rotta, creare un fronte comune e dunque far cooperare 007 inquirenti nella lotta al terrorismo. L'Europa tenta di fare sul serio questa volta e dal vertice straordinario dei 28 ministri dell'interno riunitisi ieri a Bruxelles arriva la decisione di istituire una squadra comune di collegamento di esperti nazionali antiterrorismo provenienti dai 28 paesi UE. La task force sarà installata all'AIA presso il Centro Europeo Antiterrorismo di Europol, con l'incarico, si legge nelle conclusioni del vertice, di sostenere le autorità di contrasto degli stati nelle loro indagini sulle più ampie dimensioni europee e internazionali dell'attuale minaccia terroristica. E dunque il compito sarà quello di monitorare la minaccia rappresentata da foreign fighters, i flussi di finanziamento e di armi illegali, la propaganda online. Un primo piccolo passo, forse, verso la creazione di quell'agenzia comune di intelligence, la sorta di FBI europea di cui si parla da anni. Tra le conclusioni del vertice ci sono tante altre buone intenzioni, tra cui controlli sistematici sulle frontiere esterne di Schengen, sul possesso di armi, scambio di informazioni e di intelligence, uso di prove digitali, attuazione della direttiva sul PNR europeo, il database dei passeggeri dei voli. Una lunga lista, in realtà già nota, perché la fotocopia di quella stilata a novembre all'indomani degli attacchi di Parigi e non ancora realizzata. Il terrorismo è veloce, ma le istituzioni europee sono spesso lente, ha sintetizzato bene ieri il ministro dell'interno italiano Alfano. Si spera che questa volta non sia così. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Il premier italiano Matteo Renzi si è messo alla guida del fronte dei paesi europei che propongono una maggiore integrazione europea come soluzione al deficit di sicurezza registrato con le stragi di Bruxelles. Lo dice il Financial Times, nel quale si evidenzia come le proposte di Renzi probabile che vadano lontano. La Gran Bretagna in particolare si oppone fedele ai suoi principi ad una politica di difesa comune europea, ma molti dei suoi paesi controparti in Europa fanno risuonare la loro frustrazione, dice il Financial Times, sulla necessità di passi avanti nella sicurezza. Per Europa 24 ci risentiamo questa sera all'interno di Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.